Ok. Il mio nome è Five. Vengo dalla Terronia. E questo è il mio movimento del popolo. Esodo, movimento del popolo. Schiavo in cerca di liberazione, fuori dall'oppressione. In bocca il sapore amaro di una vostra decisione. Più sangue del mar rosso in questione. Beh, voglio attenzione. Siamo stanchi di queste vite. Alziamo i tacchi, allacciamo le sneakers. Stiamo nella loro bocca e siamo noi pesci cani. Abbiamo una libertà ridotta e un'idea sbagliata del domani. Vedo soldi sporchi e mani nelle mani. Vedo porci vestiti bene, si credono esseri umani. Vizi negli mischi illeciti, credici non normali. Gli sprechi li vedi, buttano i piatti sani. Credono che questa sia la strada giusta per il domani. E su tu, ora qual è il tuo messia? Uno su mille stravolgerà i tuoi piani. E già, questo è il mio movimento del popolo. Exigas. Movimento del popolo. Dei ministri li ho visti, li ho sentiti. Ma se svuotano tasche non definiti, stipendi per partiti definitivi, soldi con cui vivi, sudi alla fine del mese chiudi. Meno 200, dimmi come li trovi, come ragioni. Vivi in una valle di pecoroni. Adesso non può stazionare una rivoluzione, ma voglio attirare la tua attenzione. Qui persone credono che tutto vada bene, ma io credo che prima o poi qui tutto cede. E sono cose ripetute, ripetute, che quasi te ne sogni. Si fanno grandi con i nostri soldi. Stronzi manipolatori, sbronzi più cornuti dei tori. Nei programmi regalano gettoni. Mando un SMS 48 sto cazzo, sei pazzo. Qui si scupano i milioni. Questo è 5.